Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Fare il giornalista è un mestiere particolare, molto delicato. Ci sono giornalisti che sono passati alla storia, ci sono sempre più giornalisti servi di qualche potere, servi di qualcuno, che fanno solo da amplificatori a cose che hanno deciso altri di comunicare. E poi invece ci sono i giornalisti che in qualche modo intervengono nella storia di un paese, magari per infilarsi in un ambiente del quale intendono raccontare. Questo è quello che si chiama giornalismo investigativo, è quello che ha trovato la sua massima espressione nello scandalo Watergate, quello del 72, i due giornalisti del Washington Post che fecero delle indagini che portarono alle dimissioni del presidente degli Stati Uniti Richard Nixon. Il giornalismo investigativo è nato proprio negli Stati Uniti, è nato alla fine dell'Ottocento, quando cominciano a emergere le prime indagini di denuncia per corruzione politica. Nasce una forma pionieristica di giornalismo investigativo che ha addirittura un nome, Muckraker, spalaletame letteralmente. È un giornalismo che vuole portare alla luce cose che qualcun altro non vuole che si sappiano. E naturalmente stiamo parlando di giornalisti che rischiano la vita, e abbiamo casi in Italia di giornalisti che sono morti per difendere la loro voglia di fare emergere qualcosa che qualcun altro voleva insabbiare. Insomma, è un lavoro da uomini duri. Bene, noi oggi raccontiamo invece la storia di una donna eccezionale. All'epoca dei fatti stiamo parlando di una ragazza di 22 anni, una ragazza coraggiosa, molto abile come giornalista, la prima reporter investigativa della storia, è autrice di alcune delle più famose e pericolose indagini mai compiute. La protagonista di oggi si chiama Elizabeth Cochran, è passata alla storia con lo pseudonimo di Nellie Bly, è definita da grandi testate giornalistiche la madre di tutte le giornaliste. C'è solo un modo per arrivare alla verità, ed è quello di vivere io stessa la vicenda che voglio raccontare. Diventare un'operaia sfruttata, una prostituta, una povera ragazza madre o una malata di mente. Provare sulla mia pelle quello che passano le persone coinvolte, vivere la loro vita. Solo così puoi raccontare la loro storia. Elizabeth Cochran nasce il 5 maggio 1864 in un sobborgo di Pittsburgh, in Pennsylvania. La sua infanzia non è felice, il padre che è un operaio muore troppo presto, lasciando la moglie e i figli in gravi ristrettezze. La mamma si risposa e il nuovo marito però è un ubriacone, un manesco. La donna divorzia, lo porta in tribunale, e Elizabeth che deve testimoniare contro il patrigno, insomma, tutti eventi che segnano profondamente la sua vita. Forse proprio da queste prime esperienze matura in lei un senso di insofferenza nei confronti dei soprusi. Così studia per diventare maestra, non può terminare la scuola perché non ci sono soldi, a 16 anni inizia a lavorare con la madre che gestisce una pensione nei quartieri poveri della città. Un giorno le capita di leggere un articolo sul Pittsburgh Dispatch, firmato da Erasmus Wilson, uno dei più famosi editorialisti dell'epoca, si intitola «Perché cosa son buone le ragazze?». È un articolo in linea coi tempi, misogino, antifemminista, che critica aspramente la tendenza delle giovani donne americane a emanciparsi e a lavorare. Lei è sconvolta e indignata dalle parole di Wilson, scrive una lettera di fuoco all'editore del giornale George Madden, firmandosi Lonely Orphan Girl, orfana solitaria. L'editore è impressionato dalla veemenza, dalla passione di quella lettera, chiede all'autrice di identificarsi e lei si presenta al giornale. Madden la conosce e vede che è poco più che una bambina, però intuisce che ha della stoffa, le commissiona un articolo e poi la assume perché scopre che lei è una giornalista nata. E in quegli anni, siamo nel 1880, ricordiamolo, di donne che scrivono ce ne sono pochissime, e quelle poche che scrivono, scrivono articoli di moda, di cucina, di conduzione della casa, cioè continuano a reiterare l'immagine che viene data e si vuol dare della donna. Bene, lei è interessata a ben altri temi: il lavoro femminile, lo sfruttamento dei minori, la difesa dei più deboli. Madden si rende conto di avere una bomba in redazione e ha l'intuizione di dare a Elizabeth uno pseudonimo con il quale firmarsi, così per tutela, per sicurezza. C'è una famosissima canzone in quegli anni scritta dall'autore del brano O Susanna, una canzone che conosciamo bene anche noi, e la canzone si chiama Nellie Bly. E così Elizabeth Cochran diventa Nellie Bly e inizia una brillante carriera all'interno del Pittsburgh Dispatch. Non sarà facile per lei scrivere di argomenti che le stanno a cuore, perché dovrà combattere per uscire dalle rubriche femminili che si occupano di torte e di giardinaggio. Lei vuole affrontare altri temi: la sicurezza nei posti di lavoro, il divorzio, l'aborto, i salari troppo bassi e soprattutto lo sfruttamento delle donne e dei minori. Il falco e il gabbiano. E così Nellie Bly è diventata una giornalista famosa ma scomoda. Le sue inchieste sulla condizione dei lavoratori e soprattutto delle lavoratrici attirano un numero altissimo di lettori, smuovono l'opinione pubblica. Però il mondo degli affari e dell'industria non ha piacere che si vada a scavare, a fare indagini su come vengono trattati i dipendenti. Minaccia di non finanziare più il giornale, così l'editore si vede costretto a trasferire la ragazza alle pagine del giardinaggio e della cura dei bambini. Lei non ci sta, però ha bisogno di lavorare e convince il suo capo a mandarla come corrispondente estera in Messico. E così questa ragazzina tra il 1886 e l'87 comincia a raccontare storie di povertà e di corruzione del paese governato dal terribile dittatore Porfirio Diaz. Naturalmente dopo 6 mesi viene arrestata perché ha osato pubblicare anche la storia di un suo collega, un giornalista imprigionato per aver criticato il governo. Il governo messicano la espelle, lei deve tornare al Pittsburgh Dispatch, alle pagine di giardinaggio, ma ci rimane ben poco perché non è una che si ferma di fronte alle prime difficoltà. E visto che a Pittsburgh lei ritiene non ci sia nessun editore con abbastanza fegato, decide di andarsene. Il 1887, Nellie Bly ha 23 anni e pochi dollari in tasca, lascia un biglietto a un suo collega. Mio caro, questo giornale non fa più per me. Qui ci sono troppe pressioni e troppo poco coraggio. Me ne vado a New York. Solo lì posso trovare un editore come dico io. Sentirai parlare di me presto. Bly. Beh, è bello dire sentirai parlare di me presto, però poi deve succedere, perché sennò è una brutta figura. Nellie arriva nella grande mela e va dal più importante editore della città, Joseph Pulitzer, quello del premio Pulitzer, proprietario del New York World. Né Pulitzer né il direttore del giornale, John Cockerill, hanno dubbi su di lei, ne hanno sentito parlare, la assumono all'istante. E questo è un grande colpo d'ala della nostra protagonista, che non ha avuto tentennamenti né timori, è andata subito dai più grandi, perché nella vita si fa così. Io, se devo andare in un ristorante con la macchina, prima passo davanti per vedere se trovo il parcheggio davanti, e se no comincio a allontanarmi. Invece c'è gente che ha paura di qualcosa prima ancora di cominciare. E lei ha in mente grandi inchieste, ha dei metodi rivoluzionari in testa e può farlo solo con una testata molto forte. Ma chi lo sa se la sua fantasia le aveva fatto immaginare dove sarebbe arrivata di lì a poco, perché Nelly Bly a New York trova pane per i suoi denti. Eh sì, perché il direttore John Cockerill non è uno che scherza, ha in mente un'inchiesta terribile che potrebbe rivelare una realtà terrificante che si verifica proprio lì a New York, perché lui ha dei sospetti, però non ha le prove. Quando conosce Nesli si convince che lei è la persona giusta per quel lavoro delicato e difficile. Dunque, sulla Blackwell Island, oggi Roosevelt Island, che si trova sull'East River di New York, sorge il Women Lunatic Asylum, praticamente un manicomio femminile tenuto in piedi grazie alle donazioni di ricchi mecenati. Però si vocifera su questo manicomio molto, ci sono delle nefandezze, pare che le donne siano trattate male, che i soprusi siano all'ordine del giorno, però ogni tentativo di scoprire qualcosa viene soffocato nell'omertà. I pochi ispettori ammessi vedono solo quello che si vuol far vedere loro. Insomma, il direttore ha in mente di realizzare un'inchiesta su questo istituto e vuole intervistare qualche paziente dimessa, cosa rara peraltro, o qualche infermiera che lavora. Ma quando ne parla con Nelly, lei non ha dubbi, l'unico modo per sapere veramente come stanno le cose lì dentro è entrarci da ammalata. Lei è molto coraggiosa, questo è un vero e proprio colpo d'ala, è un'idea che fa rabbrividire il direttore del giornale e anche noi. Insomma, lei non si ferma, inizia a studiare la parte della matta, si esercita davanti allo specchio, vuole ingannare i medici e farsi dichiarare malata di mente per poter essere ricoverata lì al Women's Lunatic Asylum. I suoi capi hanno qualche tentennamento iniziale, lo stesso Pulitzer, che è un uomo decisamente intraprendente, non ha paura di niente, si preoccupa di quello che potrebbe capitare alla sua giovane dipendente. Alla fine lei insiste talmente tanto, è evidente l'impatto mediatico peraltro che avrebbe un reportage del genere, che alla fine l'idea viene approvata. Il giornale convoca i suoi avvocati, viene loro spiegato quello che si sta organizzando in maniera da preparare tutti i documenti per liberare la giovane una volta internata e una volta ottenute tutte le informazioni desiderate, perché il rischio potrebbe essere che poi sia difficile farla uscire per qualche cavillo burocratico. Nelly intanto si è organizzata, ha ideato il suo piano formidabile. Si veste in abiti dimessi, niente documenti, pochi centesimi in tasca, si presenta alla porta di una pensione per sole donne. Durante la notte inscena una specie di crisi isterica, dice che non può dormire, disturba le altre clienti. Alla fine la direttrice della pensione è costretta a chiamare la polizia. Lei viene portata al commissariato, poi in un ospedale dove viene visitata. Insomma, nel giro di poche ore riesce a farsi dichiarare malata di mente e a farsi trasferire lì, al Women's Lunatic Asylum. Ce l'ha fatta. Quello che l'aspetta è orrore puro. Tutto quello che lei vive nel manicomio è riportato in due articoli sensazionali che vengono pubblicati sul New York World. Diventano poi un libro. 10 Days in a Madhouse. 10 giorni in manicomio. È un resoconto agghiacciante senza precedenti. Il 22 settembre 1887 sono stata incaricata dal World di condurre un'inchiesta all'interno dell'Asylum di New York per realizzare un reportage accurato e fedele sul trattamento delle pazienti e sui metodi di cura usati. Avrei avuto il coraggio di farlo? Sarei stata capace di fingermi malata di mente per poter entrare nella struttura? E una volta dentro, sarei stata capace di fingere e sopportare quello che avrei subito per un tempo abbastanza lungo da completare la mia missione? Avrei avuto abbastanza cuore e fegato per stare una settimana dentro il manicomio femminile di New York? Io dissi che ci sarei riuscita e l'ho fatto. Nel Nellie Bly viene internata con il nome di Nellie Brown per facilitare il lavoro degli avvocati, che dovranno poi attestarne la sanità di mente per tirarla fuori dal manicomio. Bene, quello che lei vede, che dovrà subire lei stessa nei 10 giorni di permanenza, è terrificante e sembra impossibile che certe cose possano accadere a poche centinaia di metri da Manhattan, in una New York pulsante di vita. Nellie racconta, attraverso un ritratto lucido e angosciante, una situazione istituzionalizzata di violenza, di una crudeltà immotivata che lascia senza parole. E la giornata tipo delle pazienti è una tragedia senza speranza, sia per quelle rinchiuse per motivi psichiatrici, sia per quelle che si trovano lì pur essendo sane di mente, perché fatte rinchiudere dai mariti o dai parenti, lucide, senza malattie, ma destinate comunque a perdere il senno per il trattamento subito, per le medicine inutili e debilitanti. Le conseguenze nefaste della terapia attuata all'interno del manicomio di Blackwell portano Nellie Bly a una conclusione lapidaria: è una trappola per topi umani. È molto facile entrare, ma una volta dentro è impossibile uscire. Le donne internate subiscono soprusi, violenze continue, il cibo è rancido, immangiabile, freddo e maleodorante. Le donne vengono svegliate alle 5 del mattino, obbligate a restare sedute su una panca in un enorme stanzone gelido per tutta la giornata, fino alle 8 di sera. Non possono muoversi perché sono legate tra di loro. Soffrono il freddo, vengono scosse da crampi terribili. E se si lamentano, gli infermieri le picchiano selvaggiamente. Vengono lavate solo una volta alla settimana, vengono gettate in una vasca di acqua gelida nella quale le più deboli muoiono. Vengono strigliate con una spazzola dura che rompe loro la pelle, e l'acqua è la stessa per tutte, sane e malate. Nellie racconta le vicende di diverse donne, per esempio la povera signora Skanz, tedesca, che non capisce l'inglese, viene considerata ritardata, derise e picchiata. Oppure la povera Josephine Despreaux, soffocata dagli infermieri per essersi dichiarata sana di mente. E Sarah Fishbaum, internata dal marito senza un motivo valido se non quello di disfarsene. Tragedie disumane che Nellie denuncia di fronte a tutto il mondo con coraggio e fermezza, riuscendo a ottenere molto presto dei risultati straordinari. Il falco e il gabbiano. La nostra protagonista di oggi è Elizabeth Cochran, passata alla storia con lo pseudonimo di Nellie Bly, la prima giornalista investigativa della storia, in un'epoca nella quale le donne facevano le mogli, le madri, stavano in casa, e se facevano le giornaliste parlavano di cucina, torte, giardinaggio. Lei non solo è stata una grande reporter, ma ha realizzato inchieste straordinarie, diventate pietre miliari del giornalismo. Tutto questo a 23 anni, e lei a quell'età aveva cominciato a infiltrarsi negli ambienti dei quali era intenzionata a scrivere. Le sue indagini hanno cambiato per sempre il corso del giornalismo moderno. È stata definita dal Wall Street Journal la madre di tutte le giornaliste. Nel nostro racconto siamo arrivati al settembre dell'87, 1887, quando lei mette a segno il suo più grande scoop, perché si è infiltrata nel Women's Lunatic Asylum di Blackwell Island a New York, dove rimane per 10 giorni allucinanti. È un'esperienza assurda, terrificante, che le consente di realizzare un reportage accurato, documentato, ma anche sentito e commovente sulle reali strazianti condizioni che vivono le internate. I suoi articoli, che escono sulla prima pagina del quotidiano New York World di Joseph Pulitzer, scuotono l'opinione pubblica, ma non solo, rimangono impressionate anche le autorità. Il grand jury avvia una sua inchiesta ufficiale che conferma le notizie degli articoli di Nellie Bly. Il risultato è strepitoso. Sono felice di annunciare che, come risultato della mia permanenza all'interno dell'asilum e conseguenti indagini, la città di New York ha stanziato un fondo annuo di $1 milione per la cura delle malate di mente della struttura. o almeno la soddisfazione di sapere che le povere sfortunate che si trovano lì rinchiuse potranno essere curate come meritano, saranno trattate con rispetto e tenute in uno stato adeguato, verranno controllate e seguite anche dall'esterno. Nellie Bly riesce a fare ancora di più. In seguito alle sue indagini viene modificata la legge che regolamenta l'internamento dei malati di mente nelle strutture ospedaliere, perché era una legge medievale, per esempio era una legge che permetteva a un marito di fare internare la moglie senza controllo medico, quindi una pratica, come dire, più veloce del divorzio, no? E il marito che voleva liberarsi della moglie diceva che era matta. Lo stile investigativo di Nellie Bly diventa il suo marchio di fabbrica. Le sue doti mimetiche, le sue doti da attrice consumata le consentono di trasformarsi. Una volta è una single in cerca di marito per indagare sulle agenzie matrimoniali, oppure è una prostituta che racconta le condizioni di vita in una casa di tolleranza, oppure una ragazza madre che deve smascherare un racket di traffico di bambini, poi diventa una ladra per riuscire a passare una notte in prigione e raccontare le condizioni delle recluse, poi diventa un'operaia in una fabbrica di scatole di cartone per descrivere le condizioni assurde in cui sono costrette a lavorare le ragazze. E ci vuole molto coraggio per fare quello che fa lei. Ascoltate Jane Miller, una nota reporter investigativa statunitense dei nostri giorni. Qualcuno deve controllare quello che succede nel paese, soprattutto viste le tante e potentissime istituzioni. E questo è quello che fa il giornalismo investigativo. Per diventare un giornalista investigativo devi essere una pellaccia. Non devi aver paura di niente, devi avere una buona dose di coraggio e soprattutto devi avere un gran fiuto. Se c'è qualcosa che puzza, gli devi andare dietro. Nellie Bly ha molto fiuto e vedete quanti tipi diversi di giornalismo ci sono, e oggi ce n'è ancora di più. Il suo è il giornalismo acrobatico, così viene definito, perché va oltre la professione del giornalista, diventa un intervento di carattere sociale che porta alla luce i problemi delle donne e di cui nessuno si sta occupando. La sua è una carriera costellata di reportage passati alla storia per la sua audacia e anche però per la sua professionalità, perché poi lei scrive bene, usa il cuore, usa i muscoli, ma usa anche il cervello. Lei diventa una donna famosa, un punto di riferimento per tante ragazze. Insomma, nasce un vero e proprio stile di giornalismo al femminile, si chiamano le stunt girls, reporter d'assalto, che sulla scia di Nellie Bly realizzano degli scoop di grande forza. Lei è destinata però a qualcosa di forse ancora più sensazionale, qualcosa che non ha a che fare con le indagini sotto mentite spoglie. Lei è sempre in cerca di novità, vuole superare se stessa, insomma sta per infilarsi in un'avventura senza precedenti destinata a consegnarla alla storia non solo del giornalismo ma del coraggio e della intraprendenza più assoluti. Siamo nel 1888, Nellie Bly è una ragazza famosa, ha solo 24 anni, però è una reporter di grande competenza, di grande professionalità e ormai è una star, la conoscono tutti a New York e non solo. Negli Stati Uniti quello di Nellie Bly è un nome ormai famoso, ma lei non è contenta, la sua testa è in fermento, sta già cercando un'idea nuova, qualcosa che non ha mai fatto. L'idea mi venne una domenica. Avevo passato tutto il giorno precedente e gran parte della notte cercando di trovare qualcosa di nuovo da proporre al mio editore. L'avrei visto il giorno dopo, ma non mi era venuto in mente proprio niente. Alle 3 di notte mi rigiravo nel letto con un terribile mal di testa. A un certo punto, disperata, dissi a voce alta: «Ah, come vorrei trovarmi dall'altra parte della terra!» Poi mi fermai. «Perché no? Ho bisogno di una vacanza, perché non fare un bel giro intorno al mondo? Se potessi farlo velocemente, come ha fatto Phileas Fogg, partirei subito». E già, Giulio Verne, 15 anni prima, aveva scritto il suo libro, forse uno dei due o tre più famosi, Giro del mondo in 80 giorni, e il protagonista era Phileas Fogg. E lei si ispira a lui, perché non tentare questa impresa immaginaria compiuta dal protagonista del libro di Verne? Il giorno dopo lei si reca in un'agenzia di viaggi. Stiamo sempre parlando della fine dell'Ottocento, quindi il giro del mondo va fatto in nave o in treno, e l'aereo non c'è ancora. E all'impiegato dell'agenzia lei seleziona una serie di timetable, di possibili coincidenze di navi, di treni. Insomma, si arriva a stabilire che non solo l'idea è possibile, ma dovrebbe riuscire addirittura a battere l'immaginario record di Phileas Fogg. Quando espone la sua idea all'editore, però, si sente rispondere così: è un'impresa impossibile per te. Prima di tutto sei una donna e avresti bisogno di un uomo che ti accompagni e ti protegga. Ma anche se tu decidessi di partire da sola a tuo rischio e pericolo, non riusciresti a trasportare tutto il bagaglio che ti serve e che ti rallenterebbe nei frequenti cambi di mezzo. Poi tu non parli altro che l'americano, ma come faresti a spiegarti? No, è fuori discussione. Solo un uomo può tentare una simile impresa. Beh, naturalmente, se avete ormai imparato a conoscere il carattere di Nellie Bly, sapete la risposta della ragazza. Ok, mandate un uomo allora, io partirò lo stesso giorno e lo batterò. Anche i capi sanno che lei non è una che dice le cose a vanvera, insomma alla fine il progetto lei riesce a farselo approvare. Sa che deve viaggiare leggera, e per le donne insomma questa è durissima, deve avere una sola borsa a mano. Conosco donne che non riescono neanche a passare un pomeriggio con una sola borsa a mano, e si fa cucire un abito pesante in un tessuto resistente e idrorepellente. Nella piccola valigia porterà un vestito leggero, biancheria di ricambio, pochi oggetti per la toilette. Il 14 novembre del 1889 alle 9:40 del mattino lei parte da Hoboken sul transatlantico Augusta Victoria per il suo viaggio di 40.000 chilometri. Il giornale naturalmente organizza un battage pubblicitario, si invitano lettori a seguire il viaggio, a scommettere sugli arrivi di Nellie nelle tappe principali. Viene addirittura organizzata una lotteria, il Nellie Bly Guessing Match, cioè chi indovinerà l'esatto momento dell'arrivo della ragazza al punto di partenza specificando giorno, ora, minuti e secondi, vincerà a sua volta un magnifico viaggio. E l'evento è talmente grandioso che il giornale Cosmopolitan, che lo storico avversario del New York World, sfida Nellie e invia a sua volta una sua reporter, Elizabeth Bisland, che parte lo stesso giorno cercando di realizzare il viaggio nel senso opposto a Nellie. Bene, lei dopo aver toccato il Regno Unito, la Francia, dove peraltro incontra proprio Verne e la moglie, poi va in Italia, poi passa al canale di Suez, va a Hong Kong, va in Cina, Giappone, Israele, Russia, tutte tappe documentate da telegrammi che vengono inviati al giornale, e lei torna esattamente al punto di partenza. Sono le 3:51 del 25 gennaio del 1890, sono passati 72 giorni, 6 ore, 11 minuti e 14 secondi. Lei ha battuto il record del mondo di quel momento. Anche la sua avversaria, carne ed ossa, cioè Elizabeth Bisland, lo batte, arriverà 4 giorni dopo di lei. Quindi anche questa Elizabeth, come dire, si distingue, ma soprattutto batte il record immaginario di Phileas Fogg, il personaggio creato dalla fervida mente di Giulio Verne. Proprio di Verne il primo messaggio che arriva a Nellie una volta giunta a destinazione. Il signor Verne desidera che il seguente messaggio sia dato a mano a Nellie Bly non appena tocca il suolo americano. Il signor e la signora Verne indirizzano le loro più sincere felicitazioni a Miss Nellie Bly per aver portato a termine un'impresa intrepida, unica e straordinaria, e per aver reso reale il loro sogno. Ed è un bel imprimatur, no? Nellie Bly diventa una star in tutto il mondo, è la donna più famosa della terra, così la definiscono i giornali. Vengono realizzate di lei delle statuette, delle bambole, viene ideato una specie di gioco dell'oca con le tappe dell'impresa straordinaria compiuta dalla ragazza più coraggiosa del mondo. Il suo nome viene dato a una saponetta, a un treno, a un cavallo da corsa. Lei naturalmente racconta la sua impresa in un libro molto divertente, Around the World with Nellie Bly, un libro che va a ruba. E lei ormai è un simbolo, è la donna che non si è fermata davanti a niente e non può più far niente di più coraggioso, così decide di passare altro. Nel 1895 accetta di sposare il ricchissimo Robert Seaman, un industriale dell'acciaio. Lei ha 31 anni, lui 73 anni, quindi 42 anni di differenza, ma anche tanti, tanti soldi, guarda caso. Idraulici di 73 anni che sposano dei trentenni sono un po' più rari, diciamo. Comunque, Nellie lascia il giornalismo, diventa presidente di una delle industrie del marito, la Ironclad Manufacturing Company, con la quale dà vita a un importante brevetto, i contenitori in acciaio per il latte, che in quel momento vengono venduti in tutto il paese. Poi ovviamente il marito muore, però le sue aziende hanno un tracollo finanziario e lei rimane spiazzata, insomma, non diventa un'ereditiera, deve tornare al suo primo grande amore, al giornalismo, e diventa corrispondente di guerra sul fronte orientale durante la prima guerra mondiale. Racconta quello che si vede nelle trincee, corpi spapolati, volti terrorizzati, occhi infossati che la seguono mentre lei scivola nel fango per raccontare quella tragedia. Poi nel dopoguerra abbraccia la lotta delle suffragette. Nel 22 Nellie Bly muore di polmonite, ha solo 57 anni, lascia una grande eredità, un segno indelebile nel giornalismo. I suoi scritti sono ancora oggi un esempio di professionalità, di correttezza, di audacia, una vera grande. Nellie Bly, una donna che ha saputo volare in anni peraltro in cui alle donne le ali venivano tarpate subito, e ha saputo denunciare un sistema, ha saputo fare tante cose, e credo che il genere femminile possa essere orgoglioso di avere tra le sue rappresentanti più illustri una donna come lei. E se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco il gabbiano @radio24.it, scrivete al nostro sito, venite sui miei social, sui social del falco il gabbiano, insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Il falco e il gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.